Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Mi riaddormentai senza ricordare di spegnere la luce, e non fu un sonno pieno, profondo. Tant'è vero che, anche in sogno, mi ritrovai nella mia camera con la matrigna che dormiva sul divano, com'era nella realtà. In sogno, essa mi pareva cattiva, infame. Si era insinuata nella mia camera con un inganno, fingendosi un ragazzo come me, vestita di una camicina che le cadeva sul petto, quasi che sotto non avesse forme di donna. Ma io avevo indovinato lo stesso che era una donna, e non volevo donne con me in camera mia. Avanzavo contro la dormiente armato di un pugnale, per punirla della sua impostura, e la sbugiardavo aprendole la camicia sul petto, così da scoprire le sue mammelle candide, rotonde. Essa gettava un grido. Non era nuovo ai miei orecchi questo grido. Lo avevo già udito, non ricordavo più quando né dove. E non conoscevo nessun altro suono altrettanto orrendo e capace di scuotermi l'animo e i nervi come questo. Mi ridestai di soprassalto, accaldato in sudore come fossimo d'estate. Con gli occhi offesi dalla luce della lampada, intravidi la mia ospite che dormiva tranquilla, nella medesima posa di prima, e mi assalì un odio sfrenato, insensato. «Svegliati!» le gridai d'un tratto scendendo dal letto e scuotendola per le spalle. «Devi andartene dalla stanza mia, hai capito? Vattene dalla stanza mia!» La vidi levarsi dalle coperte sbigottita, mostrando le sue spallucce nude e la forma del suo petto, e la odiai ancora più rabbiosamente. Fui invaso dall'assurda brama che essa fosse davvero un ragazzo uguale a me, per fare a pugni con lui finché la mia ira non fosse sazia. La sua debolezza di donna, che mi vietava di sfogare la mia ira sulla sua persona, era in quel momento ciò che più mi inferociva. «Perché non ti copri, schifosa?» le gridai. «Perché non ti vergogni di me? Voglio che ti vergogni di me!» Ella mi fissò con occhi pieni di stupore e di innocenza. Poi si guardò lo scollo del sottabito e arrossì. E non avendo là nessuno straccio da coprirsi, vergognosa incrociò sul petto le sue braccia puerili. I suoi occhi ritornavano su di me confusi, incerti, come se non mi riconoscessero. Ma tuttavia, e questo mi esasperava, nonostante il mio odio e le mie villanie, essa non aveva paura di me. In fondo alle sue pupille ancora rimaneva, e sempre vi era rimasta attraverso tutti quei giorni, una specie di interrogazione fiduciosa, quasi che la mia inimicizia non bastasse mai a farle dimenticare un unico pomeriggio che io le ero stato amico, e lei credesse ancora a quell'Arturo. Invece, doveva capire che quell'Arturo per lei non esisteva più, e che quel pomeriggio per me era un'onta. Io volevo sradicarlo dal tempo. Un'aridità spietata, che voleva saziarsi di negazioni e di crudeltà, mi soffocava la voce. «E qua, nella stanza mia, non ti ci voglio, capito?» le ripetei. «Vattene! Tu mi porti dei sogni maligni e sei una sporca pezzente, sei brutta, hai i pidocchi!» Ella si era ritratta fin sulla soglia dell'uscio, rimasto aperto da prima. Aveva preso un'aria fosca e imbronciata, ed io credetti che finalmente fra noi si frapponesse un'inimicizia irrimediabile. Allora provai la volontà acuta, anzi il piacere di infierire, e agguantato il suo guanciale, le sue coperte, glieli buttai fuori nel corridoio, poi brutalmente richiusi l'uscio su di lei. Per un poco seguitai ad udire, di dietro l'uscio, dei respiri affannosi e spaventati. «Piange perché ha paura del buio», mi dissi con aspra soddisfazione. Infine cessò ogni rumore. E il giorno dopo scopersi che ella se n'era andata a dormire nella stanzetta attigua la mia, dove un tempo dormiva Silvestro. Evidentemente, in quel vano minuscolo e non così isolato come la camera di mio padre, si sentiva meglio protetta contro la solitudine e le tenebre. Là essa trasportò, dalla stanza dove le aveva messe il primo giorno, tutte quante le immagini delle sue madonne, che dispose sulla cassa da pasta, sulla sedia, sul davanzale, tutto intorno alla brandina, come una guardia del corpo destinata a vegliare sul suo sonno. E là, d'allora in poi, si ritirò a dormire ogni sera, durante le assenze di mio padre. Quella prima assenza di mio padre durò assai meno di quanto io prevedessi. Non era passata neppure una settimana dalla sua partenza quando, con nostra grande sorpresa, egli ritornò. Arrivò inaspettato, secondo il solito, ed io, che per caso mi trovavo presso il cancello, fui il primo a vederlo comparire. Ma egli si degnò appena di dirmi «Ehi, Moro!» Tanto era impaziente di mostrarsi a lei. Con ansietà impetuosa subito si informò da me dove ella fosse e alla mia ruvida risposta che si trovava in cucina rapido girò dietro la casa avviandosi alla porta finestra. Io lo avevo seguito, sebbene con un passo svogliato e piuttosto di malumore. Infatti la mia felicità di rivederlo si era già guastata in un minuto al sentirmi così trascurato e poco importante ai suoi occhi. All'inattesa apparizione di lui la matrigna si fece rossa in viso dalla contentezza ed egli, scorgendo quel rossore, divenne d'un umore raggiante. Entrò senza abbracciarla né salutarla. «Ah, quanto sei spettinata!» le disse gettandole uno sguardo con aria di sicurezza e di possesso. «Non ti sei fatta la testa stamattina?» Poi, senz'altro, le consegnò i regali che le aveva portato. Un bracciale di legno verniciato di diversi colori e una fibbia da cintura composta di pezzettini di specchio. A me, invece, non aveva portato niente, ma vedendomi imbronciato in un angolo, mi regalò 50 lire. Indi fece la solita domanda che ripeteva ad ogni arrivo. «Che novità?» Ma a differenza di quando in passato volgeva la medesima domanda a me solo, stavolta manifestava davvero una certa curiosità di udire le risposte. Allora, confusa per l'improvvisata del suo ritorno, ella si dette a rispondergli. «E noi stiamo bene, qua faceva sempre bel tempo. Io ho avuto una lettera da mia madre con anche la firma di mia sorella, e scrivono che pure là a Napoli stanno tutti bene e ha fatto tempo buono». E lui, nel mezzo di simili informazioni, ogni tanto interrogava. «E la comare t'ha scritto? E alla messa ci sei andata?» Quasi che, per un suo capriccio del momento, provasse una specie di gusto futile a impicciarsi nelle faccende di lei. Essa, di tanto in tanto, scuoteva un poco la testa, con due riccioli in fronte che parevano campanelli, e ridendo con le pupille mobili e nere, diceva timidamente «Mica me l'aspettavo oggi di vedervi qua!» Allora, egli le dette con disinvoltura questa risposta da sovrano. «Io faccio sempre quello che mi pare. Quando mi prende la voglia di partire, parto, e quando mi prende la voglia di tornare, me ne torno qua, e tu devi fare il comodo mio!» Mio padre si trattenne a Procida un paio di giorni, poi ripartì. Dopo circa due settimane ricomparve, per un altro giorno o due. E così sempre, in quei primi mesi del matrimonio, seguitò a farsi rivedere a intervalli frequenti, pur se i suoi soggiorni erano piuttosto brevi. Ma io rimanevo indifferente alle sue partenze e ai suoi ritorni, tanto era chiaro che non veniva procida per me. Da parte sua, certo lui doveva essersi accorto fin da principio della mia visibile e ostentata antipatia per la matrigna. Anzi, in qualche occasione si sarebbe detto che ci si divertiva, ma da despota e indolente mi lasciava con i miei malumori e i miei capricci senza troppo interessarsi a me. Solo una volta mi disse qualche parola a proposito di lei. Fu in un momento che, per caso, mi trovavo solo con lui nella sua camera mentre egli faceva i suoi preparativi per partire. Io lo guardavo senza dirgli niente. Quando egli, respingendo sotto il letto con un calcio certe vecchie scarpe che non gli servivano al viaggio, nel tempo stesso mi allungò un'occhiata e osservò, in tono di distratta alterigia: «Ehi, Moretto, si va piuttosto male, amore, eh?» Senza rispondere, io alzai una spalla, disdegnoso, ed egli riprese, con un mezzo sorriso, guardandomi di fra i cigli: «Si potrebbe sapere perché ce l'hai tanto con lei, eh? Perché ti dà tanto sui nervi quella povera nunziata?» Io aggrottai la fronte, rinchiudendomi in me stesso. Allora egli uscì in una risata, poi ebbe una piccola smorfia d'ironia e, rannuvolandosi misteriosamente negli occhi, disse: «Ah, va, Moro, rassicurati, non sarà certo lei, povera nunziatina, la pericolosa rivale che ti ruberà il mio cuore». Mentre diceva questa frase, la sua voce e i suoi tratti presero un che di brutale. Poi sorrise quasi a se stesso, con la bocca chiusa e gli angoli delle labbra sollevati. Ed io riconobbi quel sorriso favoloso da capra che ricordavo di aver già veduto sulla sua faccia qualche altra volta. Incerto, lo guardai, senza ancora intendere bene a quale conclusione egli mirava con il suo discorso. «Non me ne importa niente a me», risposi a caso puerilmente. Egli proruppe in una nuova risata, fatua e spavalda. «Ah, non te ne importa», disse poi guardandomi dall'alto con i sopraccigli corrugati. «E invece io mi ero fatto una diversa opinione. Scusato, mio bel grande di Spagna. Vuoi che te lo dica qual era la mia opinione? Non dubitare, lo dirò solo a te, non ne parlerò a nessuno. La mia opinione era che sei geloso. Sei geloso di lei, di Nunziatella, perché prima, qua, sull'isola, potevi tenermi tutto per te. E ora essa ti soppianta. Che ne pensi, Moro?» Arrossì, come se egli avesse scoperto un segreto terribile. «Non è vero!» esclamai rabbiosamente. In quel punto sopravvenne lei, ed io feci per andarmene. Ma egli, afferrandomi ad un polso con una prontezza animosa e feroce, come se giocassimo alla lotta, mi ingiunse fra i denti: «Dove te ne vai, eh? Dove te ne vai? Sta qui!» E senza abbandonare il mio polso, cinta con il braccio libero la sposa, prese a trastullarsi ostentatamente con i suoi boccoli. «Che bei ricci!» si mise a dire mentre ella ci guardava seria seria, senza capire il senso di questa scena. «Peccato che Arturo non abbia anche lui questi bei ricci!» In così dire, egli mi dava delle occhiate e rideva fra sé per il compiacimento di provocare le mie gelosie. Ma infine, al vedere la violenza con cui mi sforzavo di svincolarmi da lui, annoiato mi disse: «Beh, su, vattene!» Ed io lasciai la camera senza nemmeno riguardarlo in faccia, in preda ad una collera furente. Quella sua parola, geloso, mi aveva offeso in modo estremo. Non volevo saperne di una taccia simile, e non mi veniva neppure in mente di chiedermi se per caso fosse vero che ero geloso o no. Se quel sentimento, che dopo le nozze di mio padre mi faceva vivere come un animale braccato, non potesse per caso chiamarsi gelosia. A quell'epoca io, per quanto fossi bravo a meditare sulla storia antica, sul destino e sulle certezze assolute, non avevo l'abitudine di indagare in fondo a me stesso. Certi problemi erano stranieri alla mia immaginazione. Io in quell'occasione sapevo che ero offeso, e basta. E mi risentivo per quell'offesa a un punto tale che lì per lì Pensai di imbarcarmi, di lasciare l'isola per sempre, di non rivedere più né mio padre né la matrigna. Ma avevo appena divisato questo progetto quando, al gelo subitaneo, al furore di rivolta che mi invase, compresi che non avrei potuto attuarlo veramente. Mi era insopportabile, difatti, il pensiero che sull'isola rimanessero loro due soli insieme e senza di me. La mia collera senza sfogo divenne allora così crudele che mi detti a gemere rabbiosamente, come un ferito. E certo, io lo credevo provocato dall'offesa, quel furore amaro, non da altro. Ma può darsi che, nella mia inconsapevolezza, io lamentassi già, invece, le pretese impossibili del mio cuore, e le gelosie opposte e intrecciate, le passioni multiformi che dovevano segnare il mio destino. Mi è dato supporre, mio padre mantenne la parola. Non fece conoscere a nessuno la sua opinione, quella cioè che io fossi geloso. Del resto, per ciò che riguarda la matrigna, è da credere che egli non l'avrebbe mai degnata di una confidenza così seria e importante e sungerace. Con me, poi, il suo malizioso discorso di quel giorno non ebbe più seguito. Egli ritornò subito alla sua noncuranza abituale, senza più interessarsi ai fatti miei. E così, presto, il ricordo di quell'offesa fu sepolto. La mia antipatia per la matrigna, intanto, non diminuiva. Anzi, diventava ogni giorno più fiera. Talora la udivo cantare attraverso le stanze. Ripeteva sempre le solite canzoni, imparate a Napoli dalla radio della vicina, quella della Pascia, oppure un'altra che aveva per ritornello «Tango, sei come un laccio al cuore», e anche spesso ripeteva un inno di chiesa che diceva «Adoriam ostia divina, adoriam ostia d'amor». Le sue note, volgari, stridenti, si trascinavano piene di malinconia, come se tutte le canzoni che lei cantava avessero un argomento triste. Ma essa, credo, non aveva pensieri e nemmeno era consapevole di non essere felice. Una pianta di garofano o di rosa, anche se invece che in un giardino le tocca di stare all'angolo di una finestruola dentro un coccio, non si mette a pensare «potrei avere un'altra sorte». E così era fatta lei, altrettanto semplice. A me, ascoltandola cantare, tornavano alla mente quei famosi versi napoletani che avevo imparato fin da bambino e che spesso riudivo da qualche musicante giù al porto. «Tu sei la canaria, tu sei malata e canti, tu sola sola muori». In verità, a vedere il suo volto patito, con quegli occhioni neri che sembravano bruciarlo, si poteva dubitare davvero che la stesse per ammalarsi. Quasi mi nasceva il sospetto che il fatale incantesimo dell'amalfitano fosse una realtà e dovesse farla morire. Ma il mio cuore, armato contro di lei, le negava ogni compassione. All'opposto si accaniva nella crudeltà. Soprattutto una cosa mi esasperava sempre di più con il passare dei giorni, e cioè che lei, tanto timorosa di mio padre, di me invece non mostrava mai alcun timore. Quando io la offendevo e la ingiuriavo, sebbene non mi replicasse mai nulla, tuttavia mi stava di fronte impavida come una leonessa. Simile suo contegno era un'altra riprova evidente che costei mi trattava la stregua di un ragazzino, il quale non può farsi temere da una matrona pari a lei. Eppure, dall'epoca del suo arrivo, già la differenza fra le nostre due stature appariva abbastanza diminuita, e la sua audacia era uno schiaffo per me. Io avrei voluto, per soddisfazione del mio orgoglio, ispirarle paura quanto mio padre, in cospetto del quale essa tremava sola un'ombra che gli passasse sulla fronte. E spesso, dimenticando tutte le altre mie ambizioni, mi perdevo nel progetto di diventare, da uomo, un brigante, un capobanda terribile, tale che essa dovrebbe cadere svenuta solo alla mia vista. Perfino la notte, certe volte, mi svegliavo con questo pensiero. Voglio farle paura. E mi immaginavo di usarle cattiverie inaudite, ogni sorta di barbarie, nella smania di essere odiato da lei come io la odiavo. Quando le impartivo ordini e mi facevo servire da lei, mi atteggiavo alla maniera di un torvo imperatore che si volga ad un soldato semplice. E lei era sempre docile e pronta a servirmi, ma questa sua obbedienza non sembrava, per nessun segno, dettata dalla paura. Anzi, nell'affaccendarsi per me, ella si animava e assumeva perfino delle maniere pompose. E la sua faccia, da brutta e smorta, ridiventava fresca come un gelsomino. Forse ella sperava che da parte mia il comandarla e il farmi servire da lei significasse già un principio di riconciliazione? No, non c'era modo di farle capire quanto fosse spietato il mio animo. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.